giù in cucina coi pensieri miei. Fino a domattina dovrei non pensare in replay. In fondo che è successo? Niente di speciale. Eppure non mi spiego perché allora sto così. Ma in fondo sì, è venerdì, che faccio? Esco, sto fuori. Sentirti meglio, se capita anche a te, io mi sento meglio. Ballo scordinato, io suono rock and roll, maledetto, non l'ho mai. Ma in fondo sì, è venerdì, che faccio? Esco, sto. Ma in fondo sì, è venerdì, che faccio? Esco, sto. Sento meglio, capita anche a me, vuoi sentirti meglio? Soltanto perché sai, se vuoi può mancarti soltanto l'idea. L'idea. Vado giù in cucina per far passare la notte fino a domattina. Dimmi come faccio. Vado giù in cucina per far passare la notte. Fino a domattina vado giù in cucina con la medicina tra l'allerone.